Ciao Gianni, ben sentito. Tutto super amplificato. Ciao Fra, ben sentito. E con lui sto uscendo. Con il Luis. Non c'era nessuno, ho detto va. Provo a accendere, ma non c'era nessuno. Ho detto va. E invece sei arrivato tu, là. Anch'io poco fa sono entrato, ho fatto scaldare un po' gli apparecchi, ho fatto un paio di chiamate, ma tutto morto. Qualcuno c'è che canali alti, sentivo un po' di propagazione. E qualcuno che fischia poi non risponde. E a volte anche ieri, avanti poi si è capitato, ho acceso, qualcuno è entrato, io l'ho rilanciato nuda. Tomba. E infatti ho detto, non avevo caduta. Per carità, vabbè, dai, non c'è più nessuno, tutti morti. E vabbè, meglio un fucchio in busta. Via, ma sta perdendo sempre pesi questa frequenza. E sempre alti e bassi ci sono, Ogni tanto sparisce, la gente poi rientra, poi sparisce di nuovo. È un po' come me, dai, come tutti forse. Io le date ce l'ho qua, quando c'è gente entro, quando non c'è altra roba da fare, non c'è problema. Vabbè, ultimamente ho fatto qualche chiamata, ma non ho mai risposto nessuno. Dove fai, anche io sono un mezzo incasinato tra i vecchietti e cose varie, e quindi super impegnato. Poi lavoro, cerchiamo di far coincidere tutto, va, e avanza poco tempo va. E io non è che gli possa andare rifiutata, ma avrebbe fatto il comodo che ci fosse qualcuno a parlare, ma purtroppo la gente è quella che è, e non entra, perché io mi alzo, sì, ma faccio dal divano al letto perché non ce la faccio più a camminare. Dovevi fare intervento così, se non ricordo male. Sono in lista, non lo so quando mi chiamano, sono in lista. Mia madre l'ha fatto sabato scorso, non questo, l'altro ancora, l'intervento, cioè che si è rotto il femore. Dove, a Sassari? Sì, l'hanno operata qui a Sassari. Dove, a Policlinica? No, civile l'hanno portata. Vabbè, quello per un'altra cosa, la frattura del femore è un'altra cosa. Ma meno male, perché sono cose che bisogna operare subito, io pensavo fossero tempi biblici, invece dopo due giorni l'hanno operata, sta facendo già la fisioterapia. Vanno a casa? Ancora no, probabile domani ce la diano. Perché all'ospedale civile te lo mandano a casa se non può camminare, capito? Io l'avevo fatta a casa. Sì, la segue, devi seguirla a casa poi, la fisioterapia. A me mi seguivano quelli di Canica. E chi sono? Non mi ricordo come si chiama. Una cooperativa di fisioterapisti. Ma è a pagamento? No, dall'ospedale me l'hanno mandato. Quindi ho chiesto all'ospedale, dice che sono tempi lunghissimi, parlava più di un mese, due mesi di attesa. E io me l'ho fatta io, perché era il periodo che stava cominciando il coronavirus e quindi non ci sono venuti, quindi me l'ho cominciata io la fisioterapia, facevo quello che mi facevano fare all'ospedale e infatti quando è venuto il fisioterapista mi ha trovato già a buon punto. L'importante è non fermarsi, cioè subito riprendere i movimenti, sicuramente fa male all'inizio, però bisogna stringere i denti e andare avanti. Speriamo che recuperi, Già recuperai. Ho avuto una frattura, cosa gli hanno messo? Lo ferro? Sì, gli hanno messo un chiodo con un paio di viti. Non l'ho vista la lastra, Però credo che gli abbiano forato la testa del femore stabilizzata con un chiodo e poi per tenere il chiodo due viti laterali, credo, nella fiancata, nell'osso. Vabbè. E già riprendono bene, perché io ho amici che hanno avuto incidenti e cose, l'hanno fatto così. Ma erano più giovani, un anziano c'ha sempre i tempi più lunghi. Quello è già vero. Vediamo, dai, la buona volontà non gli manca, sembra abbastanza positiva, diciamo, senza pensare al Covid. Cos'è, caduto? Sì, in campagna. Quando sono anziani poi l'equilibrio non è più lo stesso, quindi è più facile che cadano. Gli è andata bene un paio di volte e poi questa volta ci ha rimesso il femore. Ascolta, mi stanno chiamando, dai, devo andare. Un abbraccio, ci sentiamo più tardi, ma se coincide, se no alla prossima. Mi ha fatto piacere sentirti. Dai, saluta anche gli amici se dovessero rientrare. Un abbraccio, alla prossima. Bocca al lupo anche a te allora. Grazie, ciao, ci sentiamo, dai. Non lo so se rientro dopo, magari guardo il televisore, ciao. Ok, ciao.